Dovremmo esserci, e scusate un po' lo scarso segnale, l'assenza di segnale, però eravamo un attimo qui a sistemare i suoni, a fare il sound check finale. Allora, benissimo, questa è una nuova trasmissione che si chiama Reg 69, e già lo dice il nome stesso della trasmissione. Si occuperà di approfondire quella che è stata la produzione reggae strettamente limitata e quindi come si può dire direzionata alle produzioni del 1969 che è un po' l'anno storico per antonomasia dell'early reggae, o meglio conosciuto boss sound. E questo chiaramente, diciamo, per ora cominceremo con approfondire l'early reggae, il boss sound, e poi magari vediamo in futuro se riusciamo anche ad allargarci un po', ad allargare il panorama che va dal quindi la transizione, diciamo i 3-4 anni dal 68 al 71-72, che un po' sono gli anni di transizione dallo ska, rocksteady al roots, che poi ha aperto le porte al roots. Allora ci siamo, magari metto anche, cerchiamo un attimo di sciogliere l'iceberg. Saluto anche qua in diretta con me Prog 369, un grazie per il suo contributo tecnico. E quindi magari mandiamo un altro pezzo e così almeno ci prepariamo. E la prima puntata è sempre un po' così, poi vai. Come on, everybody. Ok, il prossimo pezzo che presento è Tighten Up Your Guard, a.k.a. Run to the Rocks di Kate & Tex, uscito nel 1969 per l'etichetta Explosion e anche nello stesso anno con la Crab. Ed è un pezzo... ha un sound molto particolare, secondo me è abbastanza rappresentativo, perché abbastanza rappresentativo per il periodo che dicevo prima, ossia il periodo di transizione dall'early reggae al roots. E io credo che sia abbastanza, ecco, questo è, sentiamo il suono di questo pezzo che parla da sé. Kate & Tex, Tighten Up Your Guard, a.k.a. Run to the Rocks. We'll be right back. Ok, avete ascoltato i The Creations con Mix Up Girl e Quack & Shoot. È un disco uscito per la Punch, ma anche per la Matador Records, e chiaramente non starò a ripetere sempre la data, quindi nel 69, ed è un disco, non ci sono ristampe, è abbastanza costoso, come tanti altri dischi che presenterò durante le varie puntate. Allora, bene, chiedo anche un po' scusa per i vari intoppi che ci sono stati, e la prima puntata, sicché un po' di emozione, un po' di imbarazzo. Bene, e anche oltre ad aver perso anche una serie di pezzi che non so che fine hanno fatto. Va bene, comunque, diciamo che per ora una più o meno abbondante scaletta ce l'abbiamo per oggi, dovremmo riuscire a coprire i tempi e va bene, via, la prima puntata è andata così, cercheremo di migliorare. Il prossimo pezzo è E Coop di Sir Harry, Reggae 69 qui su Radio Wombat. Brand new red, hot and blue, just the music on you. I don't want you to try your clutch, I've got the music re-flushed. Sound you miss, listen. Whether you're young or old, you let me put on wrong. The guy Jack Sprat would need no musical fun. Line up and come. Run east, west, north, or south to sound. I've got the musical knockout. Lord, Miss Lordy. Brother and sister, but when this sound is beyond compare. Tony Scott, e potete la tune, la rhythm è abbastanza conosciuta, e Liquidator di RJ All Star, e su cui questo è What Am I To Do di Tony Scott. Call on you, baby. Yeah. Ok, doppietta per Tony Scott, sempre per la etichetta Escort, esce Darling If You Love Me. You're bloody beat. Ok, loro erano The Versalites, Spread Your Bed, e il prossimo pezzo sono i The Wanderers, Wiggle Waggle, uscito nello stesso anno per la Trojan Records e per la Beverly's Records. Ok, il prossimo pezzo è Shine I Gal, che fu ripreso anche, no, non fu ripreso, porta lo stesso nome dai Black Uhuru anni dopo, Shine I Gal, però è un'altra, chiaramente solo il nome il titolo della canzone in comune, mentre io parlo di Shine I Gal di Vincent Foster, che è praticamente l'unico singolo è uscito a nome di questo artista, è uscito sempre per la Escort, il lato A di questo disco, e il lato B invece c'era King Cannon con Who Next, che io sono un fortunato possessore di questo unico disco che ora manderemo, e ora lo proviamo a cercare anche il lato B. Comunque, per ora ascoltiamo Shine I Gal, Vincent Foster. man, wow. Don't call me your foreman, I'm your boss. King Cannon is musically mad at this psychological moment. Ok, il prossimo gruppo, no, sono il prossimo gruppo, The Soulmates, il pezzo è Demma Logan da Kiki, e sempre qui su Radio Wombat. Awara, awara, awara, galah. Ok, ora andiamo a presentare una doppietta di Clancy Eccles con la sua etichetta Clan Disc Records. E di lui presentiamo Constantinople e Fatti Fatti. I come with joy. I come with greetings. I come with joy. I can see you from afar. I don't know who you are. I'm Constantinople. I'm Constantinople. I'm Constantinople. Constantinople, I come with greetings, I come with joy. I come with greetings, I come with joy. I'm Constantinople, I'm Constantinople, I'm Constantinople, I'm Constantinople. I'm Constantinople. I'm Constantinople. I'm Constantinople. I come with greetings. I come with joy. I come with greetings. I come with joy. Green, green, white, give up with them. Leon, Constantinople. I really love you, Fatty Fatty. I really want you, Fatty Fatty. I love the Fatty when you drop off your back. I love the Fatty when you slide. I love the Fatty when you drop off the back. I love the Fatty when you slide. I really love you, Fatty Fatty. Fatty, I really want you, Fatty. Fatty, I love the Fatty when you jump up. I love the Fatty when you slide. I love the Fatty when you drop off. I love the Fatty when you body. I really love you, Fatty, Fatty, Fatty, Fatty. I really want you, Fatty, Fatty, Fatty, Fatty. I love the Fatty when you drop off. I love the Fatty when you shake up your body. When you drop off, I love the Fatty when you shake up your body. When you drop off, I love the Fatty when you shake up your body. I love the Fatty when you drop off. I love the Fatty when you slide. I really love you, Fatty, Fatty, Fatty, Fatty. I really want you, Fatty, Fatty, Fatty, Fatty. I love the Fatty when you drop off. I love the Fatty when you shake up your body. I love the Fatty when you drop off your baggy. Fatty when you slide. I really love you, Fatty, Fatty, Fatty, Fatty, Fatty. I really want you, Fatty, Fatty, Fatty, Fatty, Fatty. Fatty. Come on, baby, light my fire. You're the one to give me my desire. Come on, baby, turn your lights out. Without you, I surely can't go on. Go on. What would I do when you are gone? To me, but my mind is made up for you, and I'll never turn my back on you. So, baby, come on, light my fire. You're gonna give me my desire. Ok, loro sono The Heartbrooms with Tommy McCook and the Supersonics, e anche per loro un paio di 7 pollici all'attivo. Questo che stiamo ascoltando ora è My Desire, è uscito per la, anche questo per la Trojan Records, e credo ci sia anche una blank. Un blank. But my mind is made up for you, and I'll never turn my back on you. So, baby, come on now, light my fire. You're gonna give me my desire, yeah. Me say he man come plan, same thing I me do with. Me say he man come plan, same thing I me do with. Me a go diggy up, diggy up, diggy up. Lad, me a go diggy up. Me a go diggy up, diggy up, diggy up. Lad, me a go diggy up. Me want one white fowl and rum. Lad, me a go diggy up. Me want one white fowl and rum. Lad, me a go diggy up. Me a go diggy up, diggy up, diggy up. Lad, me a go diggy up. Me a go diggy up, diggy up, diggy up. Lad, me a go diggy up. Ok, questa è Dig It Up dei The Sparkers, uscita per la Blue Cat Records, e anche per loro ci sono pochissime produzioni, tutte uscite per la Blue Cat Records. Me a go diggy up, diggy up, diggy up. Lad, me a go diggy up. Me a go diggy up, diggy up, diggy up. Lad, me a go diggy up. Me a go diggy up, diggy up, diggy up. Lad, me a go diggy up. Thank you. Ok, sentiamo, facciamo un po' un cambiamento di beat, di ritmo, di sound. Loro sono di The Eternals con Stars. E questo disco, come potete ben sentire, ha sonorità tipicamente rocksteady, ed è una produzione che al principio esce con la Supreme Records e poi è uscita anche, diciamo, è stata stampata anche con la Coxon Records e con la più famosa Studio One Records. Ok, ci avviamo verso la fine di questa prima puntata, un po' così, un po' altalenante, un po' bislacca, un po' farlocca, oserei dire. Non siamo esattamente in chiusura, però quasi molto vicini. Questa invece è questa doppietta è targata The Viceroys. È un po', ci tenevo, forse ho sbagliato, perché bisognava presentarla all'inizio, visto che pochi giorni fa è andato altrove Wesley Tinglin, che era uno dei membri fondatori dei Viceroys, appunto. E quindi forse era più doveroso aprire con questa speciale dedica, però va bene, l'importante è il ricordo, ecco. Allora, questa doppietta è praticamente c'è Take Your Hand From My Neck and Work It, che, se non ricordo male, dovrei controllare, però credo che siano uscite per le cerco, mentre le ascoltate farò una breve ma intensa interruzione per dare qualche notizia, cenno storico in più. Loro sono i Viceroys, diamogli anche un rest in peace per Wesley Tinklin. E questo è il mio personale ricordo per uno dei miei gruppi preferiti. E qui su Reggae 69, la trasmissione Reggae 69 su Radio Wombat. Take you one from me neck. You make me feel so hot. Take your hand from me neck. It's now 7 o'clock. Star shine so bright, now a night. Sun burns so hot nowadays. Take your hand from me neck. You make me feel so vexed. I love my work with respect. star shine so bright now and night. Sun burns so hot nowadays. Take your hand from me neck. You make me feel so vexed. I love my work with respect, so don't keep me back. You just don't know when to stop. You're like a horse on a track. Take your hand from me neck. You make me feel so vexed. Questa è Work It, uscita per la Crab Records. E like a fire. Lui è Lloyd Tyrell con la sua Mr. Raya, anche questo disco abbastanza difficile da trovare, è uscito per non c'è ristampa, è uscito per la Nubit Records, e lui lo vediamo collaborare con diversi artisti barra gruppi, quindi lo vediamo anche con Elton Ellis and the Flames, con Lloyd and Lovitz, The Charms, Deep Boys, e questo è Mr. Raya. Look here, oh, you're big, you know you can't be bigger than my understand you sing. Ooh, do Miss Araya, please, push it higher. Do Miss Araya. People get ready, reggae train is coming. Don't need no ticket, no baggage, get on board. All you need is faith to hear the diesel coming. All you need is faith, my friend. Jump right on, let's go up above. Jump right on, everybody, there's fun for all. People get ready, reggae train is coming. Don't need no ticket, no baggage, get on board. Ok, loro erano Reggae Boys con The Reggae Train e ci avviamo ora davvero verso la chiusura. E l'ultimo pezzo che presento è il artista abbastanza famoso, abbastanza conosciuto, e sto parlando di Max Romeo, con la sua, questo pezzo esce con la Trojan Records e anche un'altra versione di un'etichetta Johnny, sempre tra l'altro con gli stessi pezzi, Sweet Chariot e Far Far Away. In questo pezzo lo vediamo, questo pezzo è firmato Max Romeo and the Hippie Boys. E questo è l'ultimo pezzo di oggi per Reggae 69, e dopo di me ci sarà Bloody Mary con la sua Slick Chick. E grazie ancora a Prog 369 che non ci capisce una ceppa del reggae, non gli importa nemmeno conoscerlo, però mi sostiene, mi supporta e mi sopporta, fa anche ridere. Ho visto anche per la prima volta bere acqua, questa cosa mi ha profondamente sconvolto, non devo ancora somatizzare questa immagine, questa truce immagine, però sì, poi si è subito ritornato subito sui suoi passi, sostenendo che si era sentito male, che aveva avuto dei problemi bevendo acqua. Quindi va bene, grande, grande Prog 369, big up. E questa è Sweet Chariot, Max Romeo and Deep Boys, e ci rivediamo, credo e spero, martedì prossimo, sempre alla stessa ora, dalle 19 alle 20, qui su Radio Wombat. Swing high, swing low, a chariot coming for to carry me home. I wake up this morning, I see, I'm gonna carry you home. I wake up this morning, what did I see? Stepping across Jordan, come and go to carry me home. I saw Father Abraham stepping across Jordan, come and go to carry me home. So swing high, I swing low, come and go to carry me home. Swing high, I know the chariot, come and go to carry me home. I swing high. Yeah.